later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli tutto scorre nella più pigra indifferenza, K e Drago si affidano alla cultura scritta. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Niente, capo, scusa, l'enciclopedia Trepolli non parla di pollizzazione. Beh, per forza, è un'enciclopedia degli anni 50, Drago. Cosa c'entra? Come cosa c'entra? Si vede che all'epoca non esisteva ancora la pollizzazione, dai. Dove l'hai preso sto pezzo di antiquariato? Sei tutto rotto. In biblioteca l'ho preso. Perché c'è una biblioteca qui, sì, adesso. Sì, non c'è nessuno nella biblioteca. I libri sono lì a disposizione, ma non c'è neppure il pollo bibliotecario. E tu hai preso questa enciclopedia, sì, in tre volumi, che ha l'aria di aver vissuto tempi migliori, e tutto quello che hai trovato. K, è la celebre enciclopedia Trepolli in tre volumi. A ferro, ferro pino, pino ZZ. Appunto. Forse era meglio l'enciclopedia 20 polli in 20 volumi. Che stronzata! Qui nel volume Pino ZZ pollizzazione non c'è. Ma forse è la pollizzazione, quindi devi guardare in ferro pino. Guarda un po' in ferro pino un attimo. Era impossibile, la pollizzazione. Sì, perché negli anni 50 mettevano gli articoli, era importante. Sì, guarda un attimo. Ferro pino, quindi. Aspetta, ferro pino. Devo prendere il volume, aspetta che è pesante. Là ce n'è un sacco, cosa devo cercare? La polizia, Là vedi? Polizia, devo andare avanti. La polzella. La? Polli, non c'è. No, guarda bene. No, hai non saltato. C'è ma non c'è la pagina. Come non c'è la pagina? Hanno strappato la pagina, Drago. Comandante K, sì, hanno strappato la pagina della pollizzazione. Ma l'ho appena detto. Ma lo sa perché? Non vogliono che noi sappiamo il segreto della pollizzazione. Questo era tutto sottinteso già nel mio primo. It is later than you think. Affido queste mie parole a un astro magnetico, in modo che K e Drago, quando tutto sarà finito, potranno capire quel che è successo anche senza di me. Io nel frattempo potrei essere già da qualche altra parte. Dunque, io non sono sempre stato un pollo. Un tempo ero un uomo normale, vendevo dischi e avevo un negozio. Poi però è arrivata la grande crisi e ho dovuto chiudere. Dopo la chiusura del negozio ho continuato a smerciare dischi in nero, perché io i miei canali in fondo li avevo ancora. E proprio in quel periodo ho conosciuto un uomo, un collezionista di vinili, che però aveva anche un compito importante in qualche azienda, che non so quale fosse. Io li procuravo dischi rari rubati, e quindi ci incontravamo nei posti più strani e alle ore più assurde. Addirittura una volta, l'uomo mi ha dato appuntamento a mezzanotte al suo posto di lavoro. Io mi ricordo di aver pensato, ma insomma, questo qui ce l'avrà una famiglia o no? Da dove arriva sto povero disgraziato? Però alla fine ci sono andato lo stesso, dovevo vendere. E il suo posto di lavoro era questa fabbrica di polli. E l'uomo, altri non era che l'amministratore delegato. Ricordo vagamente che io gli ho dato i dischi, lui mi ha dato i soldi e il mattino dopo mi sono svegliato in mezzo a 150.000 polli grandi come me. Cioè, non è che fossero i polli a essersi ingigantiti, ero io che mi ero rimpicciolito. E soprattutto ero un pollo anch'io. E allora mi ha preso lo sbattimento. E io da quel momento non mi sono mai più mosso da qui. L'amministratore delegato non si è neanche stupito di questa mia trasformazione. Adesso non so chi li vende i dischi. Magari ha smesso di fare collezione e scarica gli MP3 della rete come tutti. D'altra parte siamo polli, no? Il giorno in cui mi scarico gratuite dalla rete le scarpe da ginnastica che tanto a me mi piacciono, sarò contento anch'io, amico, che ti scarichi gratuita dalla rete, la mia musica fantastica, fin tanto che lo scambio equo non avviene. Io sono parte lesa di questa innovazione. Tu ascolti la mia musica e io cammino scalzo. Saluta Gates e Jobs e digli che li ammazzo. Strazio, non farlo più. Trattieniti da queste cose, Drago. Va bene l'aspetto, ma il suono no, per favore. Sai che una volta si diceva che moriremo democristiani, sai quelli che dicevano così. Adesso si dirà moriremo piccioni. Cioè i democristiani di ieri sono i piccioni di oggi. Proprio così. Non è bello, eh? No, anche perché almeno i democristiani di una volta avevano il loro stile, no? Ah beh, certo, che bello stile. Dai, te li ricordi? Vari Fanfani, Piccoli, Zaccagnini, Rumor. Rumor? Ma proprio Rumor devi tirare fuori. Rumor. Vabbè, dai, Rumor a parte. Non dirmi che tra la prospettiva di morire democristiano e quella di morire piccione preferisci la seconda. Dai, il piccione è un parassita. Il democristiano era un... forse era un parassita anche il democristiano. Appunto. Quindi? E quindi moriremo parassiti, cioè democristiani. Radio Turkmenistan si dissocia da questo umorismo su politica e su principi religiosi. Anche se principi religiosi di popolo infedele, Radio Turkmenistan sempre difende principi religiosi. Rekomendan Salahan, codice fiscale, soldi Turkmenistan. Pronto, ammanesciatore delegato? Ah, come va? Va bene? Mi fa piacere. Io? Anche io sto bene. Diciamo che sto meglio, che ho avuto un coccolone. Ah, lo sa, le notizie corrono, Come dice? Che le persone importanti fanno sempre notizie. Allora lei che notizia fa? No? Perché lei è una persona importante, no? La notizia che mi fa lei mi fa incazzare a me, capito? Lo sa, lo sa. È sempre la stessa storia. Ma quale legalizzazione? E quale sterilizzazione? Noi piccioni siamo una massa. Potete anche provare a fare qualcosa, ma noi non ci spostiamo. L'avete capito o no? Se io voglio, faccio un telefonato e rovino lei e i prossimi 14 ammanesciatori delegati. Ecco, bravo, vede che lo sa. Così mi piace. La sterilizzazione se la può mettere dove dico io, vero? Cosa dice? Che se la metterà dove dico io? Ebbene, va. Lei sì, è un bravo pacciotto. Drago? Dormi? No. Cosa fai? Sono in paranoia. Anch'io. Anzi, sono in sbattimento. Anch'io. Non riesco a dormire. Ho gli occhi spalancati e i pensieri peggiori che mi attraversano la mente. Anch'io. È brutto stare nella fabbrica di polli. Anch'io. Anch'io cosa? Anch'io. Anch'io cosa? È brutto stare nella fabbrica di polli. Invece mi sa che ci resteremo per sempre. Astraiti. Sì, bella roba. Astraiti, Drago, e che ne so, pensa alla tua macchina abbandonata qui fuori. Ormai ci dormiranno i barboni nella tua macchina. Con le gomme a terra, i tergicristalli pieni di multe già scadute e dunque maggiorate di mora. Grazie. Di cosa? Di avermi rincuorato. Niente, dovere. Buonanotte. Vieni qua. Vieni qua. Sì, vieni qua invece. Invece vieni qua. Che cosa succederà adesso? Probabilmente niente. Ma per sicurezza, sintonizzatevi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo insonne allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. Night, ladies and gentlemen, good night. Sandy Nader, SOS. E quindi moriremo democristiani.